non ci poteva essere miglior celebrazione che quella, come dire, compiuta direttamente dai lettori, che sono veramente l'anima del Guerin Sportivo, cioè sono quelli che hanno scritto e hanno permesso al Guerin Sportivo di arrivare a questa data eccezionale, perché nessun periodico sportivo in Italia è mai arrivato ai 100 anni di vita. Certo. Quindi grande spazio loro. Ti racconto anche un piccolo retroscena, nel senso che io inizialmente sul timone avevo previsto un certo numero di pagine e quelle pagine lì sono triplicate alla fine, cioè ho incominciato a buttare via tantissima roba per fare spazio a questi lettori che arrivavano e riversavano sulla redazione tantissima roba, disegni, ricordi, anche perché è un giornale, Gigi, molto generazionale il Guerino, cioè c'è un'identificazione fortissima, è stato il giornale, come ho scritto nel mio editoriale che uscirà domani mattina, è stato il giornale dei nostri nonni in alcuni casi, certamente dei nostri genitori, è il nostro oggi, io ai miei figli, spero e mi auguro, sono ancora piccoli, ma di trasmettere questa passione per il Guerino, che è anche un modo, secondo me, di approcciare lo sport, di vivere lo sport, è un modo, certo, di vedere. Io ho usato un termine francese, cioè un esprit, insomma, un sentimento che lo attraversa. E quindi, diciamo, grande spazio ai lettori. Abbiamo una rubrica di Amarcord dedicata soprattutto all'82, che fu il momento massimo del Guerino, col mondiale vinto in Spagna, fu l'unico giornale, lo ricordo, insomma, a schierarsi a favore della nazionale di Berzot. Abbiamo l'intervento di quelli che oggi sono i nostri, diciamo, due dei nostri opinionisti più importanti, che sono Gianni Mura e Roberto Beccantini, ne andiamo molto fieri, quindi abbiamo affidato a loro il ricordo, e poi tanta altra roba.